un'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, l'appuntamento settimanale che Radio 24 dedica all'Europa. Lo facciamo in collaborazione con Euronet, questa network di radio europee di cui facciamo parte. Ci piace parlare dell'Europa parlando di storie, parlando di persone, prendendo spunto dall'attualità. E oggi partiamo proprio dal cuore politico dell'Europa, che è Bruxelles. Abbiamo infatti trovato un articolo sul sito presseurope.eu, che è una sorta di portale che riporta alcuni degli articoli più interessanti raccolti ogni giorno nella stampa europea, articolo intitolato "A Bruxelles l'Europa unita non è di casa", la sede infatti delle istituzioni dell'Unione ospita una variopinta presenza internazionale ed è un po' considerata anche un laboratorio di integrazione europeo, ma pare che gli abitanti di Bruxelles non abbiano mai digerito l'arrivo di questo enorme corpo estraneo e quindi insomma c'è proprio una sorta di spaccatura tra gli abitanti della città e gli ospiti. Volevamo capire meglio cosa succede a Bruxelles e quindi abbiamo convocato chi a Bruxelles ci vive proprio perché è nato in questa città. Diamo quindi il benvenuto a Chandra De Keyser, consulente informatico di Bruxelles. Ciao Chandra! Ciao, come state? Noi molto bene, e tu? Ma benissimo, c'è più sole qua che giù in Italia, mi sa. Infatti è una bella stagione in questo periodo, fa caldo lì in Belgio. Sì, comunque è tutto possibile qua, anche 12 gradi 2 settimane fa, però dai, parliamo dell'Europa e non della meteorologia forse. Allora, tu sei nato a Bruxelles proprio? Sì, sono nato a Bruxelles da una 12 anni di anni, sto anche un po' di più, 15 di anni, sto girando il mondo lavorando per aziende di informatica multinazionali e adesso ho delle attività più centrate in Brasile che in Europa. Di consulenza informatica, business development internazionale, quindi. Hai però collaborato anche con la Commissione europea, quindi insomma sei di Bruxelles, hai lavorato per la Commissione europea, vivi questa contaminazione, questo incontro quotidiano con l'Europa, con l'Unione europea. Sì, ho sentito anche la vostra introduzione di spaccatura, per me è stato molto positivo, evidentemente ognuno c'ha la sua esperienza. Secondo me Bruxelles ci guadagna tanto di più che ci perde, è ovvio che la trentina di mila di funzionari delle istituzioni con un buon potere acquisitivo ti fa crescere, cioè, crea un'inflazione sui beni principalmente immobiliari, però fa conto che in Belgio, a Bruxelles, le case costano neanche la metà di una città importante in Italia, quindi è il terzo di Londra o di Parigi, mi sa, più o meno, quindi va bene. Quindi dal punto di vista economico tu dici Bruxelles ci guadagna, ma come qualità della vita chi è nato a Bruxelles si integra con tutto questo personale straniero che arriva nella città? Ma guarda, tutti i miei amici italiani mi dicono, io questo belga non è un belga, è un cittadino del mondo e ho tanti amici italiani anche di altri paesi dell'Unione Europea qua, io ho lavorato 9 anni alla Commissione e poi ho lavorato come consulente in business development per tante multinazionali che volevano fare proprio business con le istituzioni, quindi sono in un giro internazionale dall'85 quando ho fatto il mio master in Italia e poi ho lavorato in America. Quindi sono forse un po' atipico, però decine di migliaia di persone dal Belgio, anche expatriate, ci vivono di queste istituzioni perché portano lavoro non solo ai funzionari, ma c'è tutto un ecosistema di uffici rappresentanza. Fate conto che ogni regione d'Italia c'ha l'ufficio rappresentanza a Bruxelles e poi ci sono tutte le società di consulenza e the place to be per fare business con l'Unione Europea, anche se i progetti ti portano in Zambia o in Cile, però alla fine le decisioni o almeno una parte delle decisioni si prendono qua, quindi certo. È un giro di gente internazionale con buoni livelli accademici di formazione, quindi c'è tutto un giro di gente molto in gamba, molto interessante a Bruxelles. Poi la città è molto vivibile. Certo, i numeri poi parlano chiaro, il 46% di cittadini sono di origine straniera, anche se ha un tasso di disoccupazione Bruxelles intorno al 20%, vuol dire che un cittadino su 4 vive sotto la soglia di povertà. Quindi c'è anche... questa è un'altra cosa, essere disoccupato non vuol dire che sei sotto la soglia di povertà. Anche lì, scusate, io do le mie opinioni ben in modo... No, però va bene, qua abbiamo un materasso sociale che è abbastanza buono, quindi se uno vuole lavorare qua, lavora. Io ero per strada per festeggiare la vittoria del Brasile. Ci sono centinaia di persone brasiliane, tutte illegali, che lavorano e vivono decentemente. E poi ci sono quelli che scelgono di non lavorare, che non vogliono prendere questi lavoretti, magari. Però alla fine disoccupati non vuole dire poveri, questo siamo ben chiari, no? Mm-hmm. E poi va bene, ci sono molti stranieri che hanno dei diplomi, eccetera, parlano 3-4 lingue. E poi ci sono molti belgi che ci vivono di questo business, mm-hmm. Veramente tante aziende anche internazionali prendono ufficio di rappresentanza qua, contrattano gente locale, quindi bene, penso che c'è più gente che ne vive bene di questo qua. Quindi insomma lì si vive l'Europa unita, tu ti senti un testimone? Secondo me sì, perché ci sono delle feste, ci sono dei locali, oggi ci sono dei negozietti polacchi, bulgari, cioè se vuoi vedere un po' tutti i paesi dell'Unione Europea qua, vuoi vedere una festa svedese, un bar irlandese, c'è di tutto. E poi gli italiani sono molto attivi nell'organizzare la vita culturale, notturna, c'è questo aperitivo Milano che organizzano qua, quindi c'è una vita molto carina, animata. In effetti questa visione dell'Europa unita vista dall'aperitivo non è male come idea, infatti. Chandra, prima di salutarci, mi hanno detto che tu comunque hai un debole per l'Italia, è vero che stai cercando di comprare casa nel sud? Sì, forse non comprare, però vorrei affittare su un anno e poi vedere se mi piace veramente. Con il nostro business oggi con internet, la metà lo facciamo conference call per Skype, email, eccetera, e l'altra metà sono in giro in tanti paesi europei, poi anche in America Latina, in Africa. Quindi per me il campo base oggi è più qualità di vita e poi un posto, sì, vedere il mare, poi tuffarmi ogni giorno dell'anno quasi. Quindi stavo pensando a Palermo, a Mondello, ho tanti amici in Sicilia, anche in Sud Italia, Sorrento. Sto vedendo questi due posti come posto per fare il mio campo base meridionale. Ti sei già informato su come sono gli aperitivi lì? Sì, aperitivi, digestivi, tutto, sì. Mi piace molto la gastronomia, italiana in generale, però in Sud Italia c'ho un piccolo debole lì. Il problema è che metto su chili quando vado giù, devo pensarlo. Succede. Chandra, grazie davvero per la tua testimonianza e magari ci si risente se abbiamo bisogno di una voce da Bruxelles e non sei in Brasile. Sono a disposizione, poi avete i miei recapiti, quindi con molto piacere. Ciao e buon sabato, grazie Chandra. Ciao. Okay, ciao, un abbraccio. A Bruxelles, l'Unione Europea non è di casa, ne abbiamo parlato con Chandra De Keyser che ci ha dato appunto la sua opinione. Adesso ci fermiamo, è il momento delle informazioni per chi sta viaggiando. Europost-it. Vacanza low cost anche per chi telefona. Fino a pochi giorni fa telefonare all'estero costava molto, dal 1 luglio non è più così. Lo ha deciso l'Unione Europea, che ha stabilito dei tetti massimi che tutti gli operatori telefonici sono tenuti a rispettare per le telefonate in roaming. Un risultato raggiunto però dopo una lunga battaglia. I gestori di telefonia, infatti, avevano fatto ricorso contro questa decisione, ma senza successo. E sì, perché la Corte di Giustizia Europea ha respinto il ricorso dando ragione all'Unione Europea e stabilendo che questi limiti vanno rispettati, perché è giusto che le chiamate dall'estero non siano più così costose. Detto fatto, dal 1 luglio, chiamate SMS dall'estero costano meno. L'altra Europa. L'altra Europa, vi ricordo che potete farvi vivi, potete contattarci via email, l'indirizzo è l'altraeuropa@radio24.it e tutte le puntate sono riascoltabili in podcast dal sito radio24.it. Parliamo di Europa, ovviamente, la caratteristica del nostro programma, e andiamo a sfiorare un argomento particolare, che è quello della felicità. L'Europa è un continente felice, gli europei sono felici, c'è una nazione più felice dell'altra. Per farlo abbiamo convocato un esperto in felicità, è Donato Speroni, giornalista e docente di economia e statistica all'Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino, che ha recentemente pubblicato per Cooper il volume I numeri della felicità dal PIL alla misura del benessere. Ciao Donato, buon sabato. Ciao, come stai? Molto bene, grazie. Sei felice? Sì, devo dire che mi considero molto, piuttosto felice, sì. Ecco, ma devo dire che gli italiani hanno una certa reticenza a dichiararsi felici, forse per scaramanzia rispetto ad altri popoli. Ah, dici? Cioè, c'è la tendenza al piangersi un po' addosso? Beh, insomma, allora, la felicità, il benessere soggettivo, si misura con la cosiddetta scala di Cantrill, che fu ideata da uno psicologo anni fa, e che va da 0, non potrei essere più infelice di così, a 10. Cioè la mia vita è la migliore possibile. Ecco, io ho l'impressione che difficilmente gli italiani si attribuiscono più di 8, per esempio. Ma è strano, però, nel senso che siamo comunque un paese solare, un paese anche di ottimisti, e invece no. Ma comunque, diciamo, se vogliamo parlare delle classifiche europee in generale, allora, i primi posti sono soprattutto paesi del nord Europa, cioè costantemente nella classifica Gallup, che misura appunto con la scala di Cantrill la felicità in 150 paesi, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi sono costantemente nelle posizioni più alte. Allora, contestualizziamo un attimo la cosa, perché misurare la felicità non è facile, no? E tu non utilizzi il PIL, che è il prodotto interno lordo, che uno pensa che solitamente possa essere un sinonimo di felicità, invece ci sono indici alternativi. Esatto, cioè fino a un certo livello di PIL pro capite, man mano che un paese, una popolazione guadagna reddito, migliora anche il suo livello di felicità. Superato un certo livello non c'è più questa proporzionalità, entrano in gioco altri fattori. E quindi i paesi più felici che cos'hanno? I paesi più felici hanno, ma per esempio nella Danimarca si dice, la spiegano con la cosiddetta hygge, spero di pronunciarla bene perché è una parola danese, che vuol dire un rilassato senso di convivenza, di fiducia nelle istituzioni. Mm-hmm. Qualcuno si può stupire, perché poi ci sono altri fattori. Per esempio, spesso mi trovo questa obiezione: ma come, la Danimarca, i paesi nordici sono i paesi che hanno i tassi di suicidi più alti? È vero. Invece non è più vero, questa è una leggenda metropolitana, cioè era vera anni fa. Adesso in Svezia, in Danimarca e in Norvegia ci sono 10 suicidi su 100.000 abitanti ogni anno, mentre per esempio in Francia e Svizzera ce ne sono 15. Mm-hmm. Ecco, ma quindi entrano altri indici che non sono la ricchezza, ma sono una qualità della vita che si misura anche da altre cose, per esempio, però mi pare di capire, una presenza attiva e una fiducia nei confronti dello Stato? Certo, ma allora ci sono due tipi di misurazioni. Ci sono le misurazioni, diciamo, del benessere soggettivo, che si basano soprattutto, come dicevo prima, sulla scala di Cantrill, cioè su questa domanda fatta alle persone: quanto ti senti felice? Poi ci sono invece misurazioni di benessere oggettivo che hanno più a che fare col funzionamento delle istituzioni, con elementi appunto oggettivi, come può essere appunto il tasso di suicidio, la situazione delle malattie e così via, insomma. Quindi sono, in realtà il mio libro cerca di raccontare un processo di ricerca che è molto complesso e che impegna centinaia se non migliaia di economisti, psicologi, sociologi in questo momento, perché ci si rende conto che il PIL non è più sufficiente, ma è molto difficile determinare degli indici del benessere che vadano bene per tutti. Se posso, ti faccio un esempio. Certo. Sai che si dice, ogni tanto si legge che il Bhutan, questo piccolo paese himalayano, misura la felicità interna lorda. Sì. E devo dire, lo fa anche se si va sul sito loro dell'istituto che fa queste misurazioni, lo fanno anche con dei criteri rigidamente matematici molto interessanti. Però, per esempio, una delle domande è: quante ore dedichi ogni giorno alla meditazione? Che è una tipica domanda che può andar bene per un paese buddista, ma chiaramente non funziona più da altre parti. Quindi quando si cambia, diciamo, quando dal PIL, che è misurato secondo metodologie valide in tutto il mondo e che vengono riviste periodicamente dagli statistici con un accordo globale, si passa a misure del benessere di questo genere, diventa molto più difficile fare delle misurazioni che siano comparabili internazionalmente. Ma tu te lo vedi Tremonti calcolare la felicità lorda? Ma veramente un tentativo in questo senso c'è stato. Quando l'Aspen ha fatto un convegno, sì. proprio a seguito del rapporto Stiglitz, cioè del rapporto che è stato fatto per il presidente francese Sarkozy per vedere come superare il PIL con altre misure, quando in Italia è stato fatto un convegno dell'Aspen, l'economista Marco Fortis ha presentato tutta una serie di altri parametri che dovevano dimostrare che l'Italia in realtà stava meglio di quanto non compariva nella classifica ufficiale, certo. Basandosi sul PIL. Certo. E l'economista Tito Boeri ha replicato a Fortis dicendo che Fortis aveva fatto questo per fare un piacere a Tremonti. Quindi diciamo, in realtà poi questi elementi hanno una valenza politica molto importante. Ma a livello europeo c'è qualche nazione in forte ascesa dal punto di vista della felicità? Ma direi che le nazioni europee sono in forte discesa. Cioè, in generale, prendo il caso dell'Italia. Sì. L'Italia 2 anni fa la media era 6,8 in questa scala da 0 a 10, adesso è 6,3 ed è scesa di 14 posizioni. Per esempio, la Francia da 7 è scesa a 6,3, ha perso 23 posizioni, la Spagna ne ha perse 32. Direi che la crisi morde, la crisi ha aumentato l'infelicità europea. Quelli che sono in ascesa sono i paesi sudamericani, che hanno una posizione, diciamo, come livello di felicità rispetto al PIL nettamente superiore. Costa Rica è addirittura al 5° posto, il Venezuela al 12°, il Brasile al 18°, mentre per esempio il Brasile come PIL pro capite è al 66° posto. Quindi per rimanere in Europa, per farsi una boccata d'ossigeno di felicità, rimane la Danimarca la meta migliore. Sì, i paesi nordici praticamente, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Paesi Bassi, quelli sono i paesi e poi anche la Svezia, che hanno il livello di felicità maggiore, mentre invece sono fortemente infelici alcuni paesi dell'est europeo. La Bulgaria, per esempio, dichiara un livello di felicità di 3,8, cioè a livello dei più infelici paesi africani, ed è addirittura al 144° posto su 151. L'Albania dichiara 4,6, la Serbia 4,8, la Russia 5,2. Quindi diciamo, nell'est non si raggiunge ancora un livello di felicità accettabile, mentre i grandi paesi europei, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, sono tutti fra il 6 e il 7. Un grazie davvero a Donato Speroni, ricordiamo ancora il titolo del libro pubblicato per la Cooper, I numeri della felicità dal PIL alla misura del benessere. Ciao Donato, grazie, buon sabato. Ciao, grazie a te. Europost-it. L'Europa dalle mille classifiche. A conquistare il primo posto tra le città europee più sostenibili è stata la capitale svedese. È Stoccolma, infatti, la prima capitale verde d'Europa. E non a caso, i cittadini di Stoccolma hanno ridotto le emissioni di gas serra del 25%, hanno aumentato il numero dei ciclisti, potenziato i mezzi pubblici, realizzato un sistema innovativo di gestione dei rifiuti e creato anche un vero e proprio ecoquartiere. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Cerchiamo di dare visioni nuove, visioni diverse del nostro continente. Insomma, andiamo a sfiorare sfaccettature inusuali. Per esempio, parliamo di superstizione. Perché? Perché è uscita qualche giorno fa una notizia dell'Ansa che diceva il 40% degli europei è superstizioso e c'era la solita classifica su quelle che sono le nazioni più superstiziose e più superstiziosi degli italiani, addirittura, che sono tra quelli più che più credono al malocchio, e ci sono i cittadini della Lettonia e quelli della Repubblica Ceca. Come sempre vogliamo toccare con mano, vogliamo avere una dimostrazione reale se queste classifiche appunto sono solo numeri o hanno ricadute nella quotidianità. Quindi abbiamo convocato una cittadina della Repubblica Ceca, diamo il benvenuto a Caterina, vive a Praga e ha un cognome che mi ha autorizzato a non pronunciarlo. Ciao Caterina! Ciao, buon sabato. Anche a te. Tu lo puoi dire il tuo cognome? Com'è? Labanicciova. Perfetto, che non è difficilissimo, bisogna solo prendere un po' l'orecchio con... In effetti è croato il cognome. Ah, sì? Io vengo del nord della Repubblica Ceca, sì, che è una zona che dopo la guerra era tutta tedesca. Cioè, prima della guerra, dopo la guerra, i tedeschi, diciamo, sono stati mandati via, la zona venne popolata da svariata gente, mm-hmm, e ci capitavamo anche noi. Certo, quindi tu. Ma come mai che parli così bene l'italiano, invece? Ho studiato a Bologna, il mio ragazzo italiano, lavoro sul mercato italiano, quindi... Vieni spesso anche in Italia? Per lavoro, per piacere, sì. Okay. Ecco, quindi sono più superstiziosi gli italiani o i ciechi? Allora, italiani, se si parla della statistica di cui ha parlato, fammi correggerti, perché la ricerca, se la vogliamo chiamare tale, non si riferiva alle superstizioni. Ma a che cosa? Ma io mi sono messa un po' a cercare, perché mi sembrava un attimo strano che i ciechi fossero più superstiziosi degli italiani, ed era una ricerca su come viene vista la scienza in Europa, e una delle domande era: credete ai numeri fortunati? Sì. E praticamente la notizia dell'Ansa si riferisce a quest'unica domanda. che abbiamo dei grandi collaboratori, riescono, capito, a mettere in crisi l'Ansa e tutti i giornalisti. Ma giustamente hai fatto la tua ricerca, quindi hanno fatto un titolone così, ma la base scientifica di questa ricerca è minima. Beh, direi. L'Unione Europea ha dei soldi da buttare via. No, non dire così. Perché? Però sai, queste classifiche muovono un po', anche perché solitamente fanno sempre classifiche, come abbiamo parlato anche prima, su indici economici, invece si vanno a sfiorare anche altri aspetti della vita dei cittadini. Però appunto, al di là della ricerca, che era un po' farlocca, dici che questo legame con la superstizione tu non l'avevi mai notata nel tuo paese? Assolutamente no. Per quanto riguarda numeri fortunati, io non saprei dirti, perché non ho mai scommesso. Abbiamo venerdì 13, sì, però andiamo normalmente a lavorare, purtroppo. Vabbè, insomma, quindi stai negando l'Ansa e stai negando questa classifica. Anche se però, quando ti abbiamo contattato, ci hai detto che invece c'è una certa attenzione a quelle che sono le leggende e la cultura popolare. A questo sì, beh, come tutti i paesi, no? Le leggende, abbiamo la mitologia nazionale, e abbiamo molte favole, anche perché siamo stati cristianizzati nell'Ottocento, mi sembra, sì. 0800, non 1800. Sì, 800, va bene. E quindi molte divinità che avevamo prima sono diventate personaggi delle favole. Ok, e quindi insomma ritornano nelle storie che in effetti, sì, accompagnano tutte le civiltà. Tu, se vedi un gatto nero, quindi non fai nulla di strano? No, cerco di accarezzarlo. Ecco, questa cosa non uscirà mai l'Ansa con questa notizia, però noi la diamo. E devo dire che non abbiamo nemmeno gesti particolari, per dire, per scattare la fortuna. Ok, non facciamoli vedere, siamo in radio, sarebbe difficile, però non descriviamoli nemmeno. Caterina, un po' di affari tuoi, ma quando vieni in Italia dove vai o quali sono le... Dici prossimamente? Prossimamente, sì. Prossimamente, in esattamente 11 giorni in vacanza. Dove? In Toscana. In Toscana, ok, quindi hai scelto questa bellissima regione. Grazie davvero, Caterina. Noi ovviamente teniamo il tuo numero telefonico, perché sei così brava a smontare le notizie che, se avremo bisogno di smontare qualche altra notizia, convocheremo te, ok? Ok, grazie mille e buon lavoro. Ciao, buon sabato, Caterina, grazie. Anche a te, ciao ciao. Europost-it. Spagna sempre più laica, anche in amore. Per la prima volta dagli anni 70, quando fu introdotto, il matrimonio civile ha superato quello religioso. Nel 2009, infatti, in Spagna sono stati celebrati più matrimoni civili che religiosi. I dati indicano anche un aumento delle unioni tra persone dello stesso sesso, diventate legali dal 2005. Ma l'amore non trionfa poi così tanto. In termini generali, i matrimoni spagnoli sono diminuiti del 10,8% rispetto all'anno precedente. L'altra Europa. E continuiamo a viaggiare per l'Europa e andiamo in Islanda per raccontarvi una storia, come ci piace fare qui all'altra Europa, la storia di un'italiana che si è trasferita là. Si chiama Pamela De Sensi, una musicista calabrese, direttore artistico di un importante festival di musica barocca e contemporanea, festival che si apre proprio in questi giorni, e quindi volevamo conoscere meglio la sua storia. Ciao Pamela, benvenuta all'altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti voi. Allora, calabrese di dove? Di Lamezia Terme. E in Islanda da quanto tempo? Vivo in Islanda ormai da 8 anni, però ci lavoro da circa 10. Ah, sai che hai già messo su un po' l'accento islandese, lo sai? Infatti me lo dicono, non mi riconoscono più in Calabria. Ci credo. Beh, insomma, la prima domanda è la più banale, la domanda che tutti ti faranno. Insomma, abituata al caldo, al sole della Calabria, come ti trovi là in Islanda? Eh beh, comunque anche in Islanda ci manteniamo bene con tutti questi vulcani, quindi comunque il caldo non ci manca dalla terra. No, è un posto stupendo, mi trovo benissimo, anche perché il clima, essendo così secco, non mi fa risentire di questa grande differenza climatica. Ecco, cosa ti ha portato fin lassù? Mi ha portato l'amore per la musica e anche l'amore per un vichingo. Cosa hai trovato per primo? L'amore per la musica, naturalmente, perché comunque da quando ho 8 anni che suono, quindi, però diciamo che l'amore per il vichingo ha incentivato moltissimo il viaggio. Ci credo, insomma, per amore, no? Si fanno pazzie, e può sembrare una pazzia quello di mollare tutto, di mollare la Calabria per esempio e andare lassù in Islanda. Tra l'altro ci hai raccontato un po' nel preparare la puntata la tua storia, e hai insegnato anche in un piccolo comune di 300 abitanti, ho letto, e avevi come vicino di casa un eschimese? Avevo sì, non come vicino di casa, abitavo nello stesso palazzo, un palazzo, era comunque uno chalet di 2 piani, sul mare, sì, al primo piano abitava un eschimese che mi faceva un po' da termometro. In che senso? Da barometro, nel senso che io, abituata comunque ai 35-40 gradi calabresi, quando sono andata lì a giugno ho sofferto molto il freddo, non abituata a questo clima secco, comunque freddo. E quando ho vissuto lì per 6 mesi, quando a settembre ha fatto la prima nevicata, che è stata di un metro e mezzo, sì, ho avuto le mie grandi difficoltà, perché io ero andata vestita con vestiti estivi, diciamo primaverili, quindi ho avuto le mie grandi difficoltà anche uscire di casa. Mm-hmm. E questo eschimese era, diciamo, il mio barometro, perché la mattina per me faceva molto freddo, uscivo imbottita, io lo definisco da omino della Michelin, super imbottita, e lui usciva con pantaloncini e maglietta a mezze maniche. E il giorno che uscì una mattina, lui iniziava a lavorare prima di me, sì, uscì una mattina con lui vestito da Michelin, io ho telefonato a scuola e ho detto che per questa giornata non esco di casa. No, io ho detto semplicemente, molto tranquillamente, ci vediamo allo scioglimento dei ghiacciai a maggio. Rimarrò chiusa in casa con i miei termosifoni a palla. Certo, a termine poi dell'era glaciale mi ripresenterò a scuola. Pamela, tu sei anche presidente di questa associazione italiana d'Islanda. Siete, sì, tanti gli italiani che vivete lì? Gli italiani siamo la comunità che è iscritta all'AIRE, è di circa 350 persone. Sì, non è grande comunque la comunità, però ci sono tantissimi studenti che vengono tramite il progetto Erasmus, sì, ogni anno, che poi praticamente o si innamorano di qualche islandese o comunque rimangono folgorati dalla bellezza del paese, che rimangono. Ecco, e c'è integrazione, è facile integrarsi, e gli islandesi sono curiosi rispetto a noi italiani e viceversa? Gli italiani, gli islandesi amano l'Italia in modo incondizionato, anzi anche adesso dopo 10 anni che io frequento l'Islanda assiduamente, mi ripetono perché stai in Islanda e non stai in Italia, perché loro vivono l'Italia davvero come il mito, la terra delle 7 bellezze, quindi davvero sono molto innamorata dell'Italia. Ho capito. C'è molta, diciamo, fratellanza fra i due paesi. Allora Pamela, rimani lì, ci fermiamo un attimo, lasciamo spazio alle informazioni sul traffico, poi parliamo del tuo festival. Europost-it. Poco russi e molto europei. Così si sentono i Cheese People, una band funky che arriva dalla Russia e che ha già ottenuto i primi successi anche in Finlandia, Polonia, Estonia e Lettonia. I Cheese People non hanno un'etichetta discografica, ma si autoproducono e sono così al passo coi tempi da offrire la loro musica free, cioè scaricabile gratuitamente dal loro sito. E non per generosità, per consapevolezza. Contro la pirateria, l'unica arma è arrendersi. L'altra Europa. Questa è l'altra Europa con noi, Pamela De Sensi, trentenne flautista calabrese, presidente dell'Associazione Italiana d'Islanda e anche organizzatrice di questo festival di musica barocca e contemporanea. Sentiamo già un po' di queste musiche che echeggiano qua a Radio 24. Pamela, che cos'è questo festival? Questo è un festival che quest'anno raggiunge i suoi 35 anni dall'inizio. È un festival che è stato creato e organizzato per la prima volta da musicisti provenienti dall'estero che hanno visto, sono andati a suonare in una chiesa che è la più antica di Islanda, Skálholt. Sì. Sono innamorati di questo posto davvero magico, incantevole, hanno iniziato a istituire questa organizzazione di festival. Hanno iniziato con la musica barocca e contemporanea, in quanto sono le due entità maggiori presenti in Islanda come musica, come comunque esecuzione musicale. Davvero ci sono dei grandissimi gruppi di musica barocca e anche comunque di musica contemporanea. E quindi uno strano incontro, però è bella proprio una contaminazione sia di generi che di artisti. Sì, attualmente comunque l'organizzazione è in mano a naturalmente islandesi, però è un festival internazionale che è davvero molto rinomato. Inizia adesso il 2 luglio e si concluderà l'8 agosto con un coro italiano che viene da il coro polifonico pisano, che concluderà con la settimana italiana, visto che dirigo il festival, volevo concludere comunque con qualcosa di italiano per giocare in casa. Poi so che farai anche un festival di musica classica per bambini. Sì, quello non sono direttore artistico, ho iniziato sono da 2 anni che organizzo questo festival, che è andato benissimo, perché devo dire che i bambini e i ragazzi islandesi sono davvero amanti della musica classica, quindi è ancora più divertente e stimolante creare degli spettacoli e gioco dove divertirsi insieme, perché è un divertimento soprattutto anche per i musicisti, non solo per gli ascoltatori. Inizia a ottobre e finisce a maggio questo festival per ragazzi e bambini. Pamela, ci piace conoscere sempre meglio questa nazione così affascinante che è l'Islanda. Facciamo sempre questa domanda anche a tutti i nostri ospiti, ma vi sentite un po' europei lassù? L'Islanda non solo sicuramente si sente una nazione europea, ma soprattutto una nazione mondiale, perché comunque hanno la cultura del conoscere, del viaggiare. Ci sono alcuni miei colleghi che addirittura 3-4 volte al mese viaggiano a New York per lavoro, per concerti, alcuni che settimanalmente vanno in Inghilterra oppure in Giappone una volta al mese per anche solo un master o per ragioni di lavoro. Quindi comunque è una nazione davvero, anche se un'isola, però aperta al mondo, davvero con le porte aperte sia per ricevere che per uscirne. Ecco, da una visione mondiale a una visione un po' più provinciale, il tuo vichingo l'hai conquistato con le melanzane? No, con le melanzane no, direi con la pasta l'anduia l'ho conquistato, con il peperoncino che è ancora più piccante. Grazie davvero Pamela, magari ci risentiamo in una delle prossime puntate dell'Altra Europa, buon festival. Grazie a voi e ciao. Buon estate. Ciao, buon estate a te. Europost-it. Dalla musica impegnativa a quella impegnata. Compie 11 anni l'Exit Festival, uno dei più amati e premiati festival europei. Nato come iniziativa di protesta degli studenti serbi contro il regime di Milosevic, è diventato un appuntamento imperdibile con la musica rock. Nella splendida fortezza di Novi Sad, vicino al Danubio, si esibiranno artisti famosi come i Faith No More, i Chemical Brothers, i Placebo e Mika. Exit Festival in Serbia a Novi Sad dall'8 all'11 luglio. Per informazioni exitfest.org. L'altra Europa. L'altra Europa, e chiudiamo questa puntata facendo un po' di gossip europeo. È vero che sono già passate un paio di settimane da quelle che sono state le nozze dell'anno, almeno a livello europeo. Parliamo delle nozze reali svedesi tra la principessa Victoria e il marito Daniel. Beh, abbiamo trovato un attore che ha partecipato a questo matrimonio, aveva una parte attiva, parla italiano e quindi lo abbiamo convocato per farci raccontare da lui quello che è successo durante queste nozze. Diamo il benvenuto a Peter Andersson. Ciao Peter. Ciao ciao. Ciao. Che non ti trovi in Svezia in questo momento, vero? No, in questo momento sto a Barcellona, sono in vacanza. Grande, al caldo finalmente, vero? Sì, vero. Sono un po' freddo in Svezia. No, in questo momento c'è caldo anche in Svezia. Si sta bene anche là. Allora, Peter, cos'è successo? Come mai sei stato invitato a questo matrimonio? Io faccio l'attore a un teatro stabile in Svezia, ma a volte lavoro insieme a un gruppo che si chiama il Coro Romeo e Giulietta, sì, da Stoccolma. E loro cantano canzoni del Rinascimento in italiano. Loro non sanno italiano, ma cantano in italiano. E il gruppo è composto di musicisti, ballerini, attori, cantatori, eccetera. Sì. E abbiamo fatto un breve spettacolo durante la cena di Nobel l'anno scorso. Sì. La principessa Victoria c'era quella serata e ci ha chiesto di fare qualcosa al suo matrimonio. Ah, quindi è rimasta colpita dal vostro coro? Sì, è vero. Sì. Ma quindi tu l'hai conosciuta di persona anche questa Victoria? No, ho parlato con lei, lei è molto molto simpatica, lei è molto popolare in Svezia, bella e simpatica, ma sì, abbiamo parlato, ma poco. Uh-huh. E il marito com'è? Il marito è un uomo semplice, un uomo del popolo, dalla famiglia povera, è molto semplice, è una favola vera. Cioè, lo hai invidiato? Avresti voluto essere al suo posto? No, sono già sposato. Okay. Ma lei è molto carina, quando ti guarda lei, ti veramente vede, lei è molto curiosa e molto molto simpatica, direi. Tra l'altro sono sposato. quindi non si può. Tra l'altro ho letto che per le nozze reali è uscita una Barbie, la famosa bambola, con le sembianze della principessa, appunto, Vittoria, anche se credo non sia stata presa bene sia da lei che da tutta la famiglia reale, insomma. Tornando al matrimonio invece, quindi lì avete cantato, ma durante la celebrazione o dopo, durante il rinfresco? No, dopo il pranzo. Abbiamo portato gli ospiti dalla sala di cena, naturalmente, certo, alla sala della torta. Era una torta altissima, 3 metri e mezza, 11 piani infatti. Abbiamo portato gli ospiti per mangiare la torta e poi li abbiamo portato alla sala di danza. Ho capito. E tu capisci quello che canti? Nel senso, conoscendo l'italiano riesci anche a... Sì, conosco l'italiano, ma le canzoni è da... tanti anni fa del Rinascimento, è un italiano molto difficile da capire. Capisco un po', ma non tutto. Ho capito. Ma capisco il senso, ma non tutte le parole. Credo che sia comunque una bella soddisfazione per un attore potersi esibire in questi contesti. Più grande festa non c'è in Svezia, è la festa più grande che è. Un giorno sarà la nostra regina Victoria, il suo matrimonio una grande cosa, era bellissimo stare là. Insomma, è molto amata. Sono uscito dal castello alle 4 mattina dopo. Ubriaco? Era una grande festa. Ubriaco? Sul lavoro un po' campane, solo campane. Ok, ho capito. Grazie davvero Peter per averci raccontato la tua esperienza e buona vacanza lì a Barcellona, divertiti. Sì, grazie. Ciao, buon sabato. Buona giornata Italia. A te, grazie, ciao. Europost-it. Concorso per giovanissimi fotografi. Possono partecipare tutti i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni di qualsiasi paese del mondo. Basta avere una macchina fotografica e raccontare con le immagini la propria idea di città e del vivere in un contesto urbano. I giovani fotografi devono presentare 3 fotografie che esprimono 3 concetti diversi: la città, crescere in una città e spostarsi dalla città e campagna. C'è ancora un po' di tempo per partecipare, le foto devono essere inviate entro il 28 luglio. Tutte le informazioni su shootnation.org. L'altra Europa. Chiudiamo la puntata di oggi. Vi ricordo che potete farvi vivi via email durante la settimana. L'indirizzo è l'altraeuropa@radio24.it. Tutte le puntate le potete riascoltare in podcast dal nostro sito radio24.it. Un grazie ad Alba Chiara Rondelli che con me ha scritto la puntata, da Anita Panizza in redazione e ai nostri tecnici che oggi si sono alternati, Roberto Scaltritti e Filippo Aureggi. Noi ci ritroviamo qua, come sempre, sabato prossimo alle 10. Ciao!